Lancini, cosa le è venuto in mente di mettere tutti quei soli nella chiesa comunale, nella scuola pubblica? Perché l'ha fatto? Ma guardi, non è una novità per il paese di Adro, questo Sole delle Alpi è rappresentato già in più edifici storici del paese, addirittura nell'androne del Palazzo Municipale, sede attuale del Comune di Adro, nel capitello del allora comune di Torbiato, divenuto oggi, dopo il 1928, frazione di Torbiato. Ma anche nelle panchine, mi hanno detto, nelle panchine della città. Sì, nelle panchine della città, questo Sole delle Alpi fa parte della nostra storia, della nostra tradizione. Ho capito, però Lancini, non ci nascondiamo che è il simbolo della Lega anche. No, questo è il Sole delle Alpi. No, è il simbolo della Lega, Lancini, è anche il simbolo della Lega, è il Sole delle Alpi, è una tradizione storica, però è diventato il simbolo della Lega. Ecco, qui è stato usato come tradizione storica e non come simbolo della Lega. Il simbolo della Lega è l'Alberto da Gittano. Telese, intervieni tu. Ma che dice? Allora facciamo i banchi dei bambini elementari con la svastica, con la falce e il martello, ma diciamo che la svastica è stata usata come simbolo neopagano o greco e che la falce e il martello come reliquia del Novecento. Ma cerchi di essere, lei ha fatto un video griffato della Lega, stia buono e non racconti cazzate. No, io non racconto cazzate. Nella storia del paese di Adro il Sole delle Alpi è presente dal 1600, almeno queste sono le testimonianze di questi edifici. Non capisco per quale motivo io ma oggi no, debba rinnegare no, Lancini, scusi Lancini, un attimo solo, Lancini, prima ha sentito benissimo. Il punto fondamentale però è questo: uno può anche fare una scelta, secondo me sbagliata, però bisogna essere coerenti con quella scelta. Perché lei adesso ci viene a raccontare che ha fatto una scelta di carattere storico, di tradizione? Lei ha fatto una scelta costruendo quella scuola senza far pagare un soldo allo Stato, e questo va sicuramente bene. Ha fatto questa scelta mettendo il simbolo che oggi ricorda la Lega, su questo non c'è dubbio. Voi questa scelta la difenda o no? Io difendo la scelta che questo Sole delle Alpi rappresenta la nostra storia. Per chi è leghista rappresenterà anche la Lega, per chi non lo è deve rappresentare le radici, le tradizioni e la cultura di questo paese.